9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 29 gennaio e in questa ultima puntata del primo mese dell'anno andiamo in un'isola che è chiamata l'Isola Verde, è una perla del Mediterraneo, è una perla del turismo italiano, dai tempi dei Greci si chiamava Fittecusa. Detto questo, quello che succede a Ischia in questi giorni non ha molto a che vedere con le bellezze vantate dell'isola, o forse ha proprio a che vedere con le bellezze decadute dell'isola. Che cosa avviene? Avviene, lo avete visto ai telegiornali ieri sera, ieri nel corso della giornata, poiché si tratta di iniziare a procedere, ieri doveva avvenire l'abbattimento di uno dei primi tra 600 immobili di cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato la messa a terra coattiva, poiché costruiti abusivamente, si è dovuto procedere all'invio di poliziotti e carabinieri da Napoli sull'isola perché i cittadini non sono d'accordo. Già giorni prima si era tenuta una manifestazione tra Locco Ameno e Ischia con alcune migliaia di ischitani che di fronte all'inizio degli abbattimenti dicevano: no, voi non potete iniziare a prendervela con chi ha la prima casa abusiva, iniziate ad abbattere le costruzioni abusive che sono seconde abitazioni di ricchi che vengono in vacanza, oppure contro gli abusi degli alberghi, ma se ve la prendete con chi ha la prima casa abusiva vuol dire che fate una giustizia sociale selettiva. Però la procura di Napoli, il tribunale anzi di Napoli, ribatte dicendo: no, guardate che si procede semplicemente per quegli immobili di cui la pratica è andata a maturazione, quindi noi non facciamo distinzioni di questo tipo. E la novità però è costituita dal fatto che in una delle regioni dove si concentra storicamente la maggiore percentuale di abusivismo nel nostro paese, pensate che tra Campania, Calabria e Sicilia è oltre il 50% della stima dell'abusivismo nazionale, questa volta i giudici sembrerebbero proprio intenzionati a procedere a un vastissimo programma di abbattimenti. Si parla addirittura di oltre 10.000 unità abitative in tutta la Campania, ma pensate, ben 600 sono concentrate nei pochi chilometri quadrati dell'isola di Ischia. Ergo, ieri, quando si è trattato di procedere al primo abbattimento di una piccola casa di 60 metri quadrati nella parte alta tra Casa Micciola e Locco Ameno, che era una prima casa, era la prima casa della famiglia in Pagliazzo, naturalmente la tensione è diventata molto alta, si è dovuto procedere a cariche, ci sono stati dei feriti, dei contusi. Certo, la casa è stata abbattuta. Da una parte la famiglia in Pagliazzo dice: questa non è giustizia, dall'altra molte centinaia di ischitani dicono: questa non è giustizia. Si è aperto un dibattito perché nel frattempo c'è chi in Parlamento ha proposto di riaprire il condono, condono relativo solo a varianti o edificazioni avvenute a fine dicembre del 2003, ma di riaprire i termini del condono fino alla fine di quest'anno, e ci risiamo, dicono gli altri che invece è di condono in condono, sottolineano che l'abusivismo non fa altro che essere incoraggiato. Dall'altra parte c'è un dibattito sugli organi di informazione, non solo nazionale ma anche napoletani e campani, in cui, andando a vedere i cittadini che intervengono per commentare le notizie, si osserva chiaramente una spaccatura tra chi dice: finalmente era ora, ma sì, abbattimenti e tutto ciò che viola la legge va abbattuto, e chi dice invece: eh no, però non possiamo dimenticare che da noi l'abusivismo è così esteso proprio perché qui vincoli, piani eccetera non sono stati fatti a criterio compatibile con la densità della popolazione, e quindi il bisogno di avere sia pur piccole ma case e unità abitative. Del resto, chi è andato a Ischia, chi è andato a Casa Micciola, chi è andato nella periferia di Napoli, chi è andato a Capri sa quanto il fenomeno dell'abusivismo invochi sempre ragioni di questo tipo. Il problema naturalmente a Ischia si aggrava perché è una località di straordinario interesse turistico, e lì forse, dico io, i vincoli dovrebbero essere tutelati con maggior forza e intelligenza, innanzitutto da chi vi vive e campa dell'industria turistica. Se uno pensa che cos'era Ischia fino a due decenni fa e che cos'è adesso, una colata di cemento, la mia opinione è che ci si guadagni meno anche turisticamente per chi ci vive ed è residente lì. Però ora tentiamo di capire, tra torti e ragioni, come la pensano i locali e come la pensate voi su questo enorme problema dell'abusivismo cosiddetto di necessità. Bisogna distinguerlo davvero dall'abusivismo in generale? E chi la fissa poi la necessità? Siamo così sicuri che il fatto di costituire prima casa sia quello il criterio per cui l'abusivismo è di necessità? Oppure la maniera di costruire in abusivo è una maniera poi economicamente conveniente, lo si fa in termini economici molto meno onerosi che dovendo invece sobbarcarsi gli oneri di infrastrutturazione eccetera eccetera, e tanto poi si può contare sul fatto che o il condono o il giudice compiacente o l'autorità locale compiacente non ti metteranno mai in condizione di sanare ciò che hai speso meno rispetto a chi costruisce in regola. Tutte domande che consegno a voi, chiamate per dire la vostra, 800 24 00 24. Quello che io prometto a tutti gli interlocutori è di rispettare molto il punto di vista di ciascuno, perché io capisco chi protesta e capisco anche chi si trova la famiglia in Pagliazzo. Ieri immagino che quella fosse tutta la sua vita, quei 60 metri quadrati abusivi, e certo vederli colpiti, abbattuti da una ruspa non è una cosa che possa lasciare del tutto indifferente, sia pure coloro, come siamo anche noi, che vogliono il rispetto della legge. Vediamo gli ospiti a cui chiediamo di chiarire il loro punto di vista. Innanzitutto Gennaro Savio, che è uno dei promotori delle proteste contro le demolizioni a Ischia. Buongiorno Savio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Poi Ermete Realacci, deputato del Partito Democratico, da sempre impegnato sulla trincea della battaglia del rispetto delle norme ambientali e dell'ambiente. Buongiorno Realacci. Buongiorno a tutti. Carlo Sarro, poi senatore del PDL, e che tra quei parlamentari che dicono sì, piuttosto che legnare la polizia o polemizzare contro i giudici, pensiamo a riaprire eventualmente i termini del condono. Buongiorno senatore Sarro. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Gennaro Savio, ci dice dopo la giornata ieri l'attenzione che cosa pensate di fare, se pensate di adeguarvi e di consentire senza troppi problemi al prosieguo degli abbattimenti, oppure se pensate che dopo la giornata di ieri saranno le autorità a capire che forse non è il caso di insistere? Allora, innanzitutto voglio dire che a Ischia nessuna bellezza è decaduta, l'isola verde vive sempre nel suo splendore, anche se c'è da sottolineare che per le gravi responsabilità delle istituzioni e dello Stato inadempiente, che non ha dato la possibilità ai cittadini di poter costruire nella legalità sull'isola di Ischia, dove i piani urbanistici incessavano tutti, si è avuto sì uno sviluppo urbanistico non armonioso. Quindi lei dice troppi vincoli c'erano. Certo, quando si vuol negare tutto si ottiene l'effetto contrario, perché poi tutti sapevano, i partiti, il PD, il PDL, i partiti del centro-destra e del centro-sinistra, le istituzioni, che a Ischia si costruiva abusivamente. Lo hanno consentito in un certo modo, è servito anche come indotto per prendere voti attraverso un clientelismo sfacciato, e hanno costruito tutti a Ischia, soprattutto hanno costruito coloro che hanno voluto speculare attraverso il mattone selvaggio, hanno costruito persino i cosiddetti boiardi di Stato di tutti i livelli istituzionali, che qui si sono fatti la villa sulle coste, sulle colline, non per venirci a vivere con la famiglia, ma per venirci a trascorrere le vacanze a luglio e agosto. Ma in genere questi non incorrono nell'abbattimento, perché non hanno mai subito i sigilli proprio per i loro legami istituzionali. Questa è una denuncia forte che faremo, anche perché ora vorremmo sapere chi è venuto a violentare la nostra isola, non per necessità, ma per venirci in vacanza nei mesi estivi. E i cittadini dell'isola di Ischia, a cui non era consentito neppure aprire una finestra in una casa datata, a cui gli strumenti urbanistici non davano assolutamente la possibilità di potersi realizzare la casa, avevano poche possibilità in alternativa: o tornare sulle caverne del Monte Tomeo, o erigere palafitte sul mare, o emigrare in massa in terraferma, oppure costruirsi un morso di casa abusivamente, così come ha fatto Luigi in Pagliazzo, che quella casa di 50 metri quadri, che oggi vergognosamente viene definita dalla stampa villa o villetta, veramente un affronto a questa famiglia di unghi lavoratori che io ho visitato quella casa con la lavatrice nella cucina perché non c'era posto dove metterla altrove, dove ti muovevi a fatica al suo interno. Ebbene, questi cittadini come Luigi oggi pagano lo scotto che lo Stato vuol ripristinare la legalità sempre e solo sulla povera gente, perché così come è avvenuto a Procida, dove sono state abbattute due umili case, prime case di necessità, ripeto, vengono abbattute le prime case di necessità che i cittadini sono stati costretti dallo Stato inadempiente. Bene, la sua tesi è chiara, ma io le faccio una domanda, Gennaro, le faccio una domanda. Ipotizziamo che quello che dicano i magistrati, che hanno detto no, questo è solo l'inizio, ma noi abbatteremo tutte le unità di cui l'iter arrivi al punto che il giudice ci mette il timbro e poi si dà l'esecutività all'abbattimento. Se fosse così, lei sarebbe comunque favorevole ad abbattere tutte oppure dice no, bisogna comunque distinguere? No, dico bisogna distinguere, bisogna subito, immediatamente abbattere tutta la speculazione edilizia, affaristica e persino camorristica che pure esiste sull'isola di Ischia e che, ripeto, ha sfregiato coste e colline, ma farlo immediatamente e salvaguardare le case di necessità. Lo Stato vuole abbattere le case di necessità che sono state costruite abusivamente, lo faccia pure, ma in alternativa dia immediatamente un alloggio a questi cittadini, perché è veramente impensabile che Luigi, nonno Nicola Procida, la signora Nuccia siano stati letteralmente e barbaramente sbattuti in strada senza che lo Stato, che deve garantire ad ogni nucleo familiare, costituzionalmente parlando, il diritto alla casa, non lo faccia. Noi abbiamo avuto la tragedia del Monte Vizzi, 3-4 famiglie sono rimaste senza casa in quei giorni. 4 anni fa c'è stata la passerella di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, però avete avuto anche delle vittime proprio per delle case costruite in posti dove non bisognava costruirle. Sono ancora nei containers quei cittadini da 4 anni ad oggi senza che lo Stato, queste istituzioni... Va bene, ho capito Gennaro, lei dice lo Stato, però io cittadino se costruisco dove non devo non è lo Stato a farlo, perché lo Stato mi deve dare? Lei capisca che chi è a casa e non costruisce case dove non si possono, se lei gli dice che il problema per chi le ha costruite dove non si poteva è che ci deve pensare lo Stato, cioè il contribuente, Gennaro, io sono obbligato a dirle che il minimo che si porta a casa è la reazione di incazzatura di chi ci ascolta, perché se uno non viola la legge e deve pagare perché qualcuno che la viola ha diritto alla casa, al quale io non ho diritto perché rispetto la legge, lei capisce che apriamo una guerra tra poveri, temo, piuttosto che un paese in cui c'è, col rispetto della legge, il rispetto di diritti. Però la mia è solo una reazione per indurla a riflettere sulle conseguenze che pubblicamente ottengono argomenti come questo. Onorevole Realacci, queste sono le ragioni, per così dire, che non solo a Ischia, perché poi a Pianura ieri è successa la stessa cosa, cioè in Campania c'è questo abusivismo che viene definito di necessità molto forte e la gente di fronte alla polizia non è che si protesta, picchia, ecco, questo è il punto. Qual è la risposta di una sana cultura del rispetto della legge e dei piani regolatori, dei vincoli? Che cosa si può rispondere loro? Ma guarda, io ho ascoltato le ragioni dell'abusivo di Ischia, signore, che è civile, e ha una ragione sostanzialmente. Il fatto di dire l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto in tanti, tutti sapevano, no? Bene, prendetevela, non eleggete più quegli amministratori che hanno tollerato questo tipo di abusi. Non permettete più, perché dietro gli abusi, lo diceva anche l'abusivo di Ischia, spesso ci sono anche interessi della malavita organizzata, dei clan della camorra. Non permettete più questo scempio, ma non è tollerabile che chi ha agito contro la legge, ieri la Confindustria ha annunciato di estendere a tutto il territorio nazionale una misura che è stata da tempo presa con coraggio dalla Confindustria siciliana, quella cioè di espellere dalla Confindustria le ditte che pagano il pizzo. No? Uno potrebbe dire, vabbè, ma una ditta che paga il pizzo spesso è in condizioni di sofferenza, di illegalità, no? Lo stesso può valere per uno scippo che viene realizzato, spesso ci sono ragioni di bisogno che spingono verso atti illegali, verso il contrabbando, verso lo scippo. c'è un punto in cui vogliamo fermarci. L'abusivismo, lo sappiamo tutti, da tempo è un problema enorme ed endemico in alcune aree del paese. In Campania negli ultimi 10 anni sono state costruite 60.000 case abusive. Non è un problema soltanto, diciamo, di deturpazione del paesaggio, non è un problema soltanto di evasione fiscale, di lavoro in nero, ma è un problema anche di sicurezza. Lo ricordava anche lei, ad Ischia qualche anno fa sono morte 4 persone perché vivevano in una casa abusiva costruita in un posto sbagliato. E spesso in tante aree d'Italia queste case abusive sono costruite in maniera tale, per esempio, da non essere sicure dal punto di vista antisismico. Noi non possiamo piangere i morti dell'Aquila, guardare attoniti e sgomenti a quello che succede ad Haiti e dimenticare che se costruiamo male le case, se le costruiamo in posti sbagliati, corriamo il rischio di avere in futuro ancora altri lutti, ancora altre vittime. Quindi è chiaro che è un fenomeno che va stroncato. C'è una sola maniera per fermarlo, è quello di far rispettare la legge, è quello che si sta facendo adesso a Ischia. Io faccio osservare che adesso stiamo tentando di parlare anche con il sindaco di Casamicciola, con il suo assessore, sì, che l'assessore, c'è nella giunta di Casamicciola un assessore che ha la delega per edilizia privata, il demanio è esplicitamente, la delega si conclude con la dizione condono edilizio, cioè c'è un assessore che ha la delega al condono edilizio, il che fa pensare che il problema lì sia non... È un problema enorme e aggiungo, le politiche sociali vanno affrontate sul piano sociale, ci sono delle persone che non sono in grado di trovare casa, bene, è un problema nazionale, esiste in tutte le città, si trovi la maniera di reperire degli alloggi a costi accettabili per persone... Vabbè, questo è il passo ulteriore, la fermo perché col senatore Sarro invece sentiamo il punto di vista di chi dice in nome del realismo tentiamo di affrontare la cosa e poniamoci il problema se non riaprire i termini intanto del condono. No. Che pensa, che dice senatore, questa proposta che accoglimento avrà in aula? Ma guardi, innanzitutto è necessario un chiarimento. Noi in Campania, oggi parliamo di Ischia perché naturalmente lì i fatti hanno, insomma, imposto all'attenzione dell'opinione pubblica una situazione di emergenza, ma la situazione di Ischia è comune a tantissimi altri comuni della regione dove altrettanti, forse anche più abbattimenti sono stati già con minore attenzione e minore clamore da parte della stampa sono stati eseguiti. Il punto fondamentale è che in Campania l'esigenza di ripristino della legalità passa attraverso una equiparazione dei cittadini campani agli altri cittadini italiani, e mi spiego. Noi abbiamo avuto 2 interventi della regione Campania quando fu emanato l'ultimo condono che sono stati entrambi sanzionati dalla Corte Costituzionale, il primo nel 2004 e il secondo nel 2006. In sostanza la regione Campania disse che il condono nazionale, l'ultimo, quello del 2003, in Campania non trovava applicazione, con 2 provvedimenti poi dichiarati non conformi alla Costituzione. Di fatto ai cittadini campani è stata preclusa la possibilità di presentare all'epoca la domanda di condono. Oggi noi con l'emendamento che porta la mia firma ma anche quella di altri colleghi campani cerchiamo di rimediare a questa anomalia giuridica, consentendo con una semplice rimessione in termini a tanti e tanti cittadini di poter chiedere e ottenere quello che secondo legge è stato concesso agli altri italiani, né più né meno. E vorrei anche aggiungere, quando si parla della esigenza di garantire la sicurezza delle costruzioni e ovviamente evitare le aree che sono più a rischio, che mi sembra ovviamente un'esigenza giustissima e condivisibile, noi con l'intervento che stiamo portando avanti in Senato non modifichiamo in nulla l'impianto dei controlli sulle richieste di condono. Quindi se un'area è gravata da un vincolo particolare, ad esempio quello idrogeologico, il vincolo resta. Ecco, non è compatibile, non per questo si ottiene il condono, però noi dobbiamo rimuovere una situazione anomala, perché poi giustamente si è ricordata la cifra che, ascoltata così, ovviamente impressiona: 60.000 costruzioni abusive. In realtà, se noi poi andiamo a censire e ad analizzare accuratamente, ci rendiamo conto che c'è una casistica molto differenziata, dove abbiamo il piccolo ampliamento, abbiamo l'apertura di una finestra, abbiamo a fianco anche il vero e proprio abuso e anche, in molti casi, il vero e proprio intervento speculativo. Quindi è necessario distinguere, evitare delle generalizzazioni che sono sempre pericolose, e soprattutto in questo condivido l'affermazione del signor Gennaro, mi pare di ricordare il nome Gennaro Savio, rappresentante sì. di, dei comitati, sulla necessità di introdurre e applicare in Campania, nella pianificazione del territorio, un regime vincolistico che sia più ragionevole e soprattutto più aderente anche a quelle che sono le insopprimibili esigenze abitative della popolazione. Benissimo, quindi questo è il punto di vista realistico del senatore Sarro, che dice: attenzione, in Campania c'è un problema aggiuntivo, anche perché ci fu un'applicazione impropria, per una sospensiva di applicazione in Campania delle norme sul condono. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando delle proteste contro gli abbattimenti per le unità immobiliari abusive che sono avvenute a Casamicciola, nell'isola d'Ischia. Il problema più ampio in Campania, di fronte alla determinazione dei giudici di andare avanti con abbattimenti per centinaia e centinaia, migliaia, anzi si dice, di unità, il punto di vista di chi protesta sull'isola, e non solo sull'isola ma in tutta la Campania, dicendo: no, non potete prendervela contro le prime case, l'abusivismo di necessità; il punto di vista di chi dice però la legge va rispettata; e il punto di vista concreto di chi propone: riapriamo i termini del condono in quell'area dove il condono non ha potuto fino in fondo svolgere le sue conseguenze di rimessa in regola. Vediamo come la pensate voi. Luciano da Verona innanzitutto, prego Luciano. Buongiorno, ci sarebbe da discutere almeno tre trasmissioni su tutta quella che è la legislazione farraginosa e complicata. Io invece volevo confrontarmi con l'Europa, che è più vicina a noi. Come mai il fenomeno abusivismo esiste solo in Italia e prevalentemente al sud? Sua risposta? Anche se sono a Verona, sono a Napoli. Molto semplice. Dall'accento un po' napoletano, mi pare. Certo, infatti. E conosco tantissimi amici che hanno costruito per necessità abusivi a Ischia. Come mai? La risposta è molto semplice. Scusi, mi è venuta da ridere, perché posso dirle una cosa, perché sì, insomma, io parlo di Ischia avendo una certa cognizione, perché ci sono andato tantissimi anni quando ero ragazzino, e all'epoca, altro che, se non era più verde, Gennaro Savio era molto più verde di adesso, ma multiplo. Detto questo, io conosco abusivismi di ogni tipo, ma la maggior parte di quelli che conosco, al di là di quelli nella parte centrale dell'isola, Forio, Panza, eccetera eccetera, che sono veramente di nuove famiglie, io conosco a livello di massa a Ischia abusivismo di estensione di unità abitative, non di prima casa, ma che servono a fare turismo, a ospitare durante la stagione la gente, che sono padiglioni poi annessi ad alberghi, a terme e così via. Questa è la realtà che conosco io, e credo di conoscerla un po' l'isola. Prego Luciano. Questa è la realtà vera, cioè questo è lei, anche non essendo del luogo, ma ha delineato un quadro perfetto, è così. E dietro a questi poveracci, perché veramente sono dei poveracci a cui tirano giù le case, si nascondono tutti quelli che hanno fatto alberghi eccetera eccetera. Io volevo, per ritornare al discorso dell'Europa, semplicemente far notare questo: in Germania, in Belgio, in Francia, dove vado spessissimo per lavoro, non si tira su niente di abusivo, ma niente. E perché? Molto semplice: il primo che mette giù una pietra in minuti di orologio 5 c'ha le ruspe che glielo tirano giù, 5 minuti. Ma però lei dice quindi la colpa è dello Stato, mi pare di capire. Certamente, al 200%. Bisognerebbe, molto semplice, la soluzione è molto semplice: si modifica la legge, l'abbattimento non va fatto dopo 1000 ricorsi, TAR, tribunale, opposizione, avvocati che mangiano 30.000 euro, no. L'abbattimento va fatto in minuti di orologio 5. Benissimo, chiarissima la tesi di Luciano. Chiarissima la tesi di Luciano. E siamo sempre lì, però: la colpa è dello Stato se ci sono gli abbattimenti, e la colpa è dello Stato se costruiamo dove non dobbiamo costruire. Ma qualcuno che dica che la colpa è nostra ci sarà mai, oppure no? Bruno da Napoli, prego Bruno. Buongiorno dottor Giannino. Io mi rifaccio un po' a quello che il mio predecessore, l'ascoltatore Luciano da Verona. Esattamente. Sì. In effetti ha ragione. Io conosco molto bene Pianura. È impossibile pensare che centinaia di palazzi di 6-8 piani siano stati costruiti così, in maniera impunemente, senza che nessuna autorità fosse mai intervenuta. È normale che dopo che hai fatto costruire centinaia di case di 6-8 piani, ma come li butti più a terra quando poi ci abbiano 30, 40, 50 mila persone? È impossibile. Quindi ha ragione il signore che diceva prima: sono le autorità che non servono a nulla. Quando tu metti la prima pietra, allora devi intervenire. La colpa è anche di chi costruisce abusivamente, su questo non ci piove. Però lei dice, una volta che c'è un intero quartiere, Pianura, per chi non lo conoscesse, un quartiere nato nella periferia spaventoso. Di Napoli, spaventoso, senza fogne, senza luce, con strade, per modo di dire, quando è nato e per molti anni poi è rimasto così, lei dice, di fronte a questo, adesso che vogliamo abbattere? Bisogna condonare e mettere in regola. È la stessa cosa di Ischia, è vero, sono 600, è vero, ho sentito prima, ma quello non è una villetta, è una casetta di 40 metri quadri, peggio ancora, perché allora siamo quasi a livello di baracca, in un'isola che vive soltanto di turismo, sì. 600 baracche abbiamo costruito. Grazie Bruno. Grazie Bruno, ci fa realisticamente riflettere sul fatto che la necessità è necessità. Lella da Roma, sentiamo, Lella che pensa? Buongiorno direttore, la ringrazio per l'opportunità di esprimere la mia espressione. Io sono favorevole al condono, soprattutto se questo fosse compatibile con il piano casa. Si eviterebbero intasamenti anche presso i tribunali e anche un dispendio economico notevole per l'amministrazione pubblica. Io sono coinvolta in un processo penale per aver chiuso un patio e veramente mi sento, non so, come cittadina molto umiliata, perché un penale per una persona che insomma aveva commesso solamente infrazioni con la macchina è una cosa insopportabile. Certamente. Io volevo così sensibilizzare anche i nostri politici su questo argomento. Grazie Lella. Faccio osservare a tutti che il partito del realismo e la difesa della necessità è nettamente in vantaggio in chi sta intervenendo. Ugo da Verona, prego. È caduta la linea, mi pare di capire, con Ugo da Verona. Giro immediatamente a Ermete Realacci la prima riflessione. E i sostenitori qua della riapertura dei termini e della distinzione tra abusivismo di necessità rispetto alla linea inflessibile applichiamo la legge perché semmai cominciamo l'abusivismo lo continuiamo a incentivare, ci sono forti. Che impressione le fanno? A me sembra che i due primi ascoltatori, la signora bisogna capire diciamo qual è la sua situazione, ovviamente nessuno pensa di confondere l'apertura di una finestra con una nuova casa abusiva, no? E gli abbattimenti non fanno piacere a nessuno, soprattutto se si tratta non di palazzi. Io personalmente mi sono molto impegnato nel passato per esempio in alcuni abbattimenti simbolici, lei lo sa, penso ad esempio al Busso di Fuenti o alla Saracinesca di Bari, a grandi speculazioni che deturpavano tratti di costa importanti. Però mi pare che i due primi signori abbiano detto la cosa vera, che sanno tutti, perché poi i fatti sono argomenti testardi. Gli anni peggiori per l'abusivismo in Italia sono sempre quelli in cui si parla di condono. Se uno va a vedere i dati del Cresme, no? Vede che gli anni peggiori, gli anni in cui schizza l'abusivismo, sono gli anni in cui si realizzano i condoni e gli anni successivi. È stato così per esempio con il primo condono voluto da Berlusconi nel 94, è stato così nel 2003 e sicuramente emendamenti come quelli al Senato, perché poi andiamolo a distinguere le case fatte prima del 2003 da quelle fatte nel 2005, sono emendamenti che favoriscono l'abusivismo. Chiarissimo, l'effetto lei dice è quello domino, quando si afferma un tema e se ne dibatte la sensazione che si dà è iniziate a costruirle che poi si mette in regola, però la reazione di chi ha tirato su Pianura è diversa, perché Pianura non nasce di fronte a una cosa di condono. E anche a Ischia molti, a Capri, perché anche a Capri il fenomeno è fortissimo, Capri, chi conosce la struttura dell'isola sa che moltissimi, per formarsi le famiglie, siccome non si poteva fare, le hanno fatte comunque. Allora lì come si fa a distinguere? Giuseppe da Ischia, lei come la pensa? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Vi ringrazio dell'interessamento per l'isola, per questa problematica. Purtroppo le rappresento, premesso che io ritengo che siamo tutti colpevoli. Questa è una problematica che comunque non si è esaurita con diciamo la demolizione che è stata effettuata ieri. Certo. Io nella qualità praticamente di consigliere della Federgeometri le rappresento e le evidenzio che l'articolo 38 della legge sul condono 4785, la quale era il fabbricato anche oggetto, in quanto realizzato prima del 1983, testualmente recita: la presentazione entro il termine perentorio della domanda, di cui all'articolo 31, accompagnata dall'attestazione del versamento della domanda, cosa effettivamente realizzata anche per il caso in essere, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Io mi chiedo, perché non è stato rispettato ieri anche a Ischia questo? per questo io dovrei dirle che la risposta non può che venire dal giudice, quindi non è che... Forse perché non riuscendo a spronare le amministrazioni ad esaminare le istanze di condono che materialmente non hanno le normative per esaminarle, si vuole sollecitare l'approvazione di piani regolatori e relative normative di... Ecco, questo tema che lei sta sollevando è un tema che c'è oggi sui giornali napoletani e campani, c'è un tema da sempre, cioè qui è una, c'è chi pensa che alla fine poi i provvedimenti di abbattimento nascano proprio perché le autorità locali sono bloccate tra vecchi piani regolatori e l'incapacità in termini numerici, politici, di elaborare nuovi strumenti di modifica dei vecchi piani e dei vecchi vincoli, che per questo rimangano pendenti poi le richieste di esame delle messe in regola o che poi non sia stata data risposta a chi ha consegnato le richieste nei termini dei condoni. E che per tutto questo alla fine la magistratura dopo un po' di anni dice vabbè, allora io inizio ad abbattere. Questa è un'analisi molto realistica che c'è, e ci sono alcune considerazioni che oggi svolge il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco, che sono molto in controtendenza, perché prima ci diceva Realacci sono gli anni in cui si parla dei condoni quelli in cui nascono le costruzioni abusive. La tesi del direttore del Corriere del Mezzogiorno, che oggi non poteva venire ai microfoni, è un'altra. Dice no, la verità vera è che bisogna dire una cosa che non piace alla sinistra. Quel bellissimo film Le mani sulla città di Rosi, che siamo abituati da sempre a vedere nei cineclub, con il sindaco Lauro che mette le mani sulla città e mette col mattone tutti in riga i napoletani per averne i consensi, ha avuto un effetto terrificante, perché qui si è bloccato tutto ed è per questo che hanno costruito solo gli abusivi. Ora, le informazioni sulla circolazione stradale? Niente, non ci sono le informazioni sulla circolazione stradale? Però. Allora, un secondo, ancora una telefonata. Marcello da Roma. Buongiorno. Eccoci. Sono in trasmissione? Sì, prego. Ah, buongiorno. Senta, io sono assolutamente contrario alle procedure di sanatoria delle costruzioni abusive. Sì. Perché? Perché una casa abusiva, che noi chiamiamo di necessità, non è una cosa che si fa in pericolo di vita, per cui c'è una necessità impellente tale e quindi bisogna fare per forza questa casa, altrimenti si muore. Ci sono altre soluzioni. Trovo che comunque le responsabilità maggiori le abbiano le amministrazioni locali, a cominciare da chi è in capo all'amministrazione, cioè i sindaci delle amministrazioni locali, i gruppi di polizia urbana. Perché? Perché io sono stato sindaco di un comune, amministrare un territorio, controllare il proprio territorio non è un problema impossibile. Cioè lì la legge non è che dice costruisci la casa e poi tra tre anni la demolisco, la legge pone una serie di momenti in cui si può intervenire per l'abbattimento di un immobile abusivo. Primo fra tutti il controllo del territorio. Quando ci si accorge che c'è una casa abusiva in fase di realizzazione, si interviene immediatamente con il sequestro del cantiere e poi si fa la procedura di demolizione in consiglio comunale. Così dice la legge. Sì, sì. Non bisogna aspettare che la casa sia completata. No, il fenomeno è, Marcello, che è diverso quando in area in cui l'abusivismo è a lungo protratto e diventa un fenomeno esteso, lì sono gli amministratori che non vengono più eletti sulla base dell'idea di adottare esattamente le procedure che lei sta ricordando, che sono quelle ordinarie, che dovrebbero impedire di arrivare poi all'abbattimento decretato dal giudice, ma dovrebbero da parte degli amministratori locali immediatamente contrastare il fenomeno. Ma è chiaro che quando c'è un esteso, radicato, protratto nel tempo fenomeno, gli amministratori locali vengono eletti sulla base della rappresentanza anche di quel fenomeno. Che ne pensa Andrea da Ischia? Salve, dica. Grazie per l'opportunità. Prego, dica. Diciamo, il mio, nonostante sia solidale nei confronti della persona che la famiglia in pagliaccio, ecco. La famiglia in pagliaccio, io credo che l'abusivismo sia colpa principalmente degli ischitani, che non si rendono conto, da ischitano ne parlo, che non si rendono conto che forse questo ha danneggiato prima noi. Sicuramente Ischia è un posto bellissimo dove vivere. Sicuramente è un posto dove chi ci nasce ha difficoltà ad andare via, e me ne rendo conto prima io, sono una persona giovane, diciamo, immaginare di vivere altrove non è facilissimo, perché ci sono delle condizioni di vita ottime, voglio dire. Però questo ha fatto sì che, numero uno, chiaramente gli ischitani, voglio dire, per necessità tra virgolette hanno costruito ovunque, ma il problema principale è che l'abusivismo proprio dagli schitani è stato fatto anche per... Quindi lei è pro abbattimenti, dice siamo colpevoli, ma è per gli abbattimenti? Sì, in buona sostanza io non penso che molte case vadano abbattute, ma soprattutto oltre che le case chiaramente di necessità, come diceva anche Savio, è necessario abbattere le strutture. Ho capito, allora io mi aspetterei dagli schitani un bel elenco sottoscritto, i migliaia di protestatari dicano questi alberghi, questi a una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, se ce ne sono anche a cinque stelle non credo, sono abusivi, abbattete quelli, fate la lista però, cioè fate i nomi e i cognomi, se non si spezza sta facendo omertosa, per cui ci lavorate dentro a quelle strutture, perché questa è la realtà che conosco io, e allora poi è un po' difficile credere che si debba cominciare da qualche altra parte, quindi da qualche parte bisogna cominciare. Ci stiamo occupando di abusivismo edilizio, Ischia, Casamicciola, Campania, insomma, problema poi in tutta Italia, perché molti sms vengono e dicono ma veramente non è che a Milano, dove c'è l'articolo 100 del regolamento edilizio, venga così poi rispettato, quindi non crediamo. Certo è un fenomeno concentrato nel sud, ma non c'è solo il sud. Adriano ha chiamato la provincia di Milano, che ne pensa lei? Io penso che è ora di finirla con questa gente che dice povero me, ci deve pensare a me lo Stato. Allora io mi chiedo, io sono un cretino e come me milioni di radioascoltatori che vanno a lavorare, si spaccano la schiena tutti i giorni e vivono di stenti per pagare un mutuo. Noi siamo deficienti. Perché questi qua, loro si costruiscono le case, non pagano niente, poi lo Stato ci deve pensare. Ma a me lo Stato ci pensa? Adriano, io penso che lei sia maggioritario, tra chi ci ascolta penso che lei sia maggioritario. L'ultima cosa che voleva dire? Ecco, volevo dire, un reato è sempre un reato, non è che uno dice, oggi ho sparato a quello, non importa, domani, tra un anno, 20 anni, chi se ne importa, no. Grazie, no, è chiaro, la legge va rispettata. Umberto da Milano ancora, prego Umberto. Allora, pronto, ci sono? Sì, c'è, mi pare che non è molto milanese dall'accento, è vero. No, non sono molto milanese, vengo dalla provincia di Avellino, diciamo, quando avevo 14-15 anni c'era il problema di dover costruire casa e non c'era il piano regolatore, era un problema generalizzato in paese, non è stato mai fatto il piano regolatore, fu fatto manifestazione varia, alla fine sono state tirate su 300-400 case abusive nell'ambito del comune, diciamo così, sì. Sequestrate, soggette a processi, poi nell'85 furono tutte quante sanate con la famosa col primo condono, sì. Più o meno si è costruito. Quindi lei dice non ci sono stati piani regolatori e questo spiega anche l'estensione, la pervasività nel sud dell'abusivismo o comunque delle aree che conosce lei direttamente. Michele Buonuomo, presidente di Legambiente Campania, che si risponde a chi dice in Campania ce n'è così tanto in più non perché siamo atavicamente tarati e proclivi a non rispettare la legge e a invocare sempre che sia lo Stato a sanare il fatto che noi ci comportiamo come meglio crediamo, ma il fatto che quegli strumenti regolatori del governo del territorio non hanno funzionato negli ultimi 50 anni. Prego, buono. Io non credo nell'elemento antropologico, non ci credevo a proposito del ritardo nell'avvio della raccolta differenziata, non ci credo rispetto all'abusismo. Io credo che sia sempre necessario un richiamo alle autorità ai diversi livelli. Volevo dire al senatore, ad esempio, che ci ascolta, è vero che c'è un'anomalia legislativa in Campania, ma la prima anomalia è che da 10 anni questa regione è sempre maglia nera nel nostro rapporto ecomafia per numero di abusi edilizi legati anche alle attività criminali. 60.000 casi, 60.000 abusi in 10 anni non si fanno senza connivenze, senza grossi interessi, altro che necessità. Sono stati diretti su quartieri abusivi, centinaia di appartamenti in anni recenti a Casalnuovo, oltre che a Pianura. Ogni giorno ci sono 16 abusi acclarati nella nostra regione, non piccoli abusi, perché almeno risulta che sia stata abbattuta una finestra abusiva. No? Si parla di costruzioni abusive. Quindi lei dice andiamo con gli abbattimenti perché hanno anche un effetto chiaro di stop pubblico a questo punto. Sì, guardi, e poi è necessario nella nostra regione in particolare, ma nell'intero mezzogiorno, ripristinare il ciclo integrato delle responsabilità. Allora, ognuno deve fare la sua parte, se no non ne veniamo mai fuori. dopo l'abbattimento della Martidana Hotel, meglio noto come Fuenti, dopo l'abbattimento delle torri del villaggio Coppola o del villaggio abusivo di Eboli, pure lì dicevano che era abusivismo di necessità, solo seconde case, case di vacanze, c'è stato un decremento. Non è vero quello che dice oggi l'editoriale del direttore del Corriere del Mezzogiorno. Chiarissimo. Allora la fermo un secondo per chiedere al senatore Sarro, PDL, che ha chiesto insomma la riapertura dei termini per la campagna eccetera, di rispondere a questa osservazione, che dice che lei in realtà con questo emendamento non fa altro che dire continuate. No, guardi, innanzitutto l'emendamento fissa alla data del 31 marzo 2003, così come prevede la legge nazionale, l'epoca di commissione dell'abuso, quindi questo per essere molto chiari e per sgomberare il campo da ogni equivoco e strumentalizzazione. C'è da dire che esiste in Campania, ma nel Mezzogiorno più in generale, un livello di responsabilità che appartiene a molti gradi delle istituzioni. Io ho ascoltato i vari interventi, condivido quello, adesso non ricordo nella successione, che appunto diceva esistono gli strumenti per intervenire da subito, non appena l'abuso viene materializzato. È vero. Era un ex sindaco che chiamava da Roma e diceva spetta all'amministratore locale. Sono assolutamente d'accordo, esistono gli strumenti, ci sono sindaci, ci sono amministrazioni che li fanno osservare e ce ne sono altri che sono latitanti da questo punto di vista, mi riferisco alle loro responsabilità, talvolta compiacenti. Benissimo, allora il senatore Sarro dice la mia norma non incentiva nessuno a continuare perché si parla di cose costruite anni fa. Gennaro Savio, concludiamo con uno dei promotori delle proteste contro le demolizioni. Che cosa vi aspettate nei prossimi giorni? E cercate di non picchiare i poliziotti, però, se posso chiedere una cosa esplicita. Prego, Gennaro. Innanzitutto ci sono le immagini su internet, le ho fatte io personalmente, dei cittadini che con le mani alzate subivano le cariche. Punto primo, ci sono le immagini. Due, noi ci auguriamo che il governo su questa materia venga finalmente incontro, ripeto, solo ed esclusivamente verso quei cittadini che sull'isola di Ischia sono stati costretti a costruirsi la casa abusivamente. Perfetto, Gennaro. Allora io la devo concludere, però ho dato la parola più o meno a tutti. Io sono un legalitario, penso che chi ha chiuso per troppi anni gli occhi gli amministratori locali deve avere dei doveri suppletivi. Ecco, questo è il problema, eccetto ne leggiate dei migliori, questa è la mia speranza, nazionale come locale. Allora, appuntamento a lunedì, grazie in regia Paolo Corleone e come sempre Alessandro Marco Tulli, senza cui questa trasmissione non avrebbe che i miei errori. La linea al giornale radio, appuntamento a lunedì.